A quanto pare a Sydney è possibile assistere, stando sulle barche, a una vera e propria parata di fuochi d'artificio, come quello che accade per noi a Ferragosto. Per quanto riguarda invece il Capodanno a New York, la palla luminosa che si trova invece a Times Square comincia a scendere alle 23:59 e raggiunge la base proprio quando scatta la mezzanotte. Tra l'altro posso chiedervi, qual è il paese in cui scatta prima il nuovo anno? Che di solito quando noi siamo per festeggiarlo in alcuni paesi sono già nel 2011 o in Cina nel 2050, perché poi loro hanno un altro calendario. Sì, loro festeggiano giusto. Proprio in maniera diversa. Diversa. Quindi. Ma comunque in effetti, beh, domanda del milionario anche a voi pubblico ascoltatore. Che se cercate Lipstick Lagoon su Facebook. Rispondeteci su Facebook, qual è il paese che vedrà prima sorgere il 2011? Attendiamo le vostre risposte. Guardo dopo su Google e te lo dico. No, dai, noi siamo esclusi. Non vorrei azzardare, ma dovrebbe essere comunque una qualche isoletta in mezzo all'oceano. Tipo Awawa, come si chiamano? No, non già Awawa sono le Hawaii. Comunque in mezzo all'oceano Pacifico dovrebbe essere. Okay. Comunque lo scopriremo. Beh, andremo lì. Beh, sarebbe interessante. Siamo i primi. E avendo i soldi, partire da quell'isoletta e spostarsi. È vero, in farsi 5.000 capodanni. O come farei io al contrario, in modo da evitarlo. Questa idea è già stata copiata per il capodanno del 2000. Non vorrei deludervi, però non anche siete quella di evitarlo, siete arrivati 10 anni dopo. Anche quella di evitarlo, di fare il contrario in modo da arrivare sempre quando è già stato festeggiato. No, lì potresti effettivamente toccare un record. Comunque, veniamo a cose più tradizionali. Capodanno più romantico che si possa fare è sicuramente quello a Parigi. Difatti, adesso vorrei dire un piccolo gossip. Personale, non gossip, no, comunque un racconto personale, perché io sono andata a festeggiare il Capodanno a Parigi e in quell'occasione mi è stato regalato l'anello alla mezzanotte sotto la Tour Eiffel. No, ragazzi, no. La torre, gli uomini, la torre, come l'hai detta? La Tour Eiffel. Tour Eiffel è, per chi come me non sa il francese, Torre Eiffel, detta in italiano, in modo che ci capiamo. Insomma, comunque quella bellissima costruzione sotto la quale vorresti sempre mi sperare. Mi sembra che ci fosse anche Belen e Corona quella. È vero, proprio Belen e Corona. Comunque noi abbiamo fatto concorrenza, poiché l'uomo che mi ha consegnato appunto l'anello in quell'occasione è diventata la persona più importante della mia vita. Che bello, veramente. Allora, quindi porta bene. Viva gli uomini romantici, 2011, esatto, chissà cosa ti prospetterà il 2011. Comunque, a proposito, tutti quelli che sono accoppiati devono baciarsi a mezzanotte, cioè non solo scambio di auguri, ma proprio un bacio sulla bocca perché è accoppiato, perché porterà prosperità per la coppia nel nuovo anno. Va bene, ecco. Ma a mezzanotte proprio in punto. Sì. Invece se tarate volete gli orologi, perché magari per non sbagliare. Uno fa mezzanotte, uno là. Quello era Fantozzi in qualche film, quando aveva il famoso sindrome gruppo musicale per andare a suonare nei vari capodanni. Comunque invece se volete fare un capodanno molto giovane e vivace potete andare a Berlino, dove potete assistere a una vera e propria guerra di petardi e musica techno. Una cosa guerra completamente diversa, esattamente, a me è successo di andare 2 anni fa e sono sopravvissuta, però insomma è stata un'esperienza molto intensa. Avevano anche tanto caldo, mi avevi detto, le sì, probabilmente erano berlinesi. I petardi appunto, in quanto come arrivavano addosso. E invece se volete passare il Capodanno in Italia, magari una cosa un pochino più fattibile rispetto all'Australia e a New York, potete andare per esempio a fare un banchetto medievale a Rivalta, in provincia di Piacenza, dove appunto al posto delle solite portate tradizionali magari potete gustare i piatti appunto del Medioevo, delle cose particolari. Bello, un bel maiale così. Esattamente. Che gira. E soprattutto mangiare con le mani, bello. E poi andiamo là con la mulica di pane a tocciare sul maiale. Niente manicure insomma, perché tanto non serve per quella sera. No, bello, molto molto rustico, direi. E intanto noi vi mandiamo in California. You can travel the world. E dalla California torniamo invece in Italia con un'altra proposta originale per il Capodanno. Potrebbe essere un cenone sulle rotaie, ossia montando su un treno che parte dalla stazione di Lecco e di Monza con arrivo poi a Mantova. Pensavo in mezzo alle rotaie. No, quello aspettando l'arrivo del treno. Un Capodanno da brivido, assolutamente. No, ah, no, una no. Cosa più tranquilla. Diciamo che il cenone avviene appunto all'interno del treno e si utilizza nei vagoni a mo' di ristorante. Che bello! Poi si arriva in centro, nella piazza principale di Mantova, e là si festeggia la mezzanotte. Invece per gli amanti degli spettacoli e del teatro potrebbe essere una cosa originale festeggiare la mezzanotte, per esempio, guardando uno spettacolo. Nei giorni di Capodanno, per esempio, avviene Umbria Jazz, che è il festival più importante del jazz in Italia. Oppure si potrebbe andare ad Orvieto ad assistere a un concerto gospel, oppure ci sono numerosi spettacoli, per esempio so che anche il Palazzetto di Udine organizza qualcosa di originale quest'anno. Ma anche per esempio Mamma Mia a Milano, lo spettacolo prodotto in italiano di questo grande musical americano e inglese, festeggia il Capodanno insieme al pubblico, così come anche La Bella e la Bestia a Roma. Bellissimo. E invece un po' più tardi, mi sembra il 2 gennaio, vada in scena a Padova il grande show delle feste, grande show natalizio, quindi se avete nipotini o grandi e piccoli, qualcosa che unisce così le generazioni. Una cosa invece da fare tra donne, ma anche comunque tra coppie, assolutamente potrebbe essere un'idea originale e rilassante, è quella di fare il Capodanno in una spa. Ci si può recare in Croazia. Oppure in qualche centro anche qua vicino, dato che è diventata ormai una cosa diffusa quella di andare alle terme durante le feste natalizie. Ecco, se dovessi scegliere, quella sarebbe una cosa interessante. Però dove offrono la ciocoterapia? La ciocoterapia cos'è? Sì, tipo ti fanno i massaggi con la Nutella, fai il bagno con bagno schiuma. Un po' di cornflakes. Sì, però la Nutella poi, cioè non quella che ti spalmi sul corpo, ma... Devi mangiare un po' di Nutella, poi perché non puoi cospargerti di Nutella e resistere dalla voglia di spalmarti. Sì, ma quello fa parte del recupero psicologico, fisico e psico. Comunque secondo me è meglio non rilassarsi troppo, perché sennò non si arriva neppure a festeggiare la mezzanotte. Di solito dopo il centro benessere la pressione scende. Allora, mi trovate nel lettino con le gambe in su. Beh, magari nel sogno è più bello il Capodanno che nella realtà. No, è vero, il Capodanno immaginato. Sì, alla fine Inception è proprio del 2010, quindi queste cose dei sogni, dentro fuori dai sogni, potrebbe starci tutto. Un'altra cosa originale da fare è quello di trascorrere un Capodanno in cantina. Questo magari potrebbe... Sì, venite a casa mia! Un Capodanno 10 euro entrata! 10 euro vi do la mia cantina con un po' non di salami. Speculare, Jessy! Non nella propria cantina! Ah, scusa, no! No, però, in effetti, se volete, metto ci può stare. Non nella propria cantina, che è una cosa sicuramente economica, bensì nella cantina di qualche agriturismo. Viene offerta appunto questa alternativa nelle cantine del Friuli Venezia Giulia, dove è possibile passare un paio di giorni degustando i vini e soprattutto quindi, il cenone. Chi non beve a Capodanno non beve tutto l'anno. Esatto, quindi direi che si può brindare nel migliore dei modi. Bene, è il momento di sentire un'altra canzone, visto che abbiamo terminato i nostri viaggi in Italia. Won't you dance? Che bella canzone da party, perché anche chi rimane a casa può fare delle cose interessanti e viaggiare magari stando fermo. Spiego il concetto. Ci sono delle idee da fare appunto durante la festa di Capodanno, durante le feste quando ci si ritrova con gli amici. Per esempio la festa del fuso. La festa del fuso? Che non significa... Cioè il fuso nel senso uno che ormai ha fuso perché dopo le feste non ne può più? Più o meno. Comunque significa giocare con i fusi orari. Ossia, per esempio, se sono le ore 19, festeggiare se è il Capodanno a Nuova Delhi, in maniera appunto tipica, come farebbero a Nuova Delhi. Oppure alle 21 magari si mangia qualcosa di cinese, di tipico appunto per il Capodanno cinese. Aspetta, uno sceglie, nel senso uno decide o questo Capodanno o tutti, quindi... Tutte le ogni ora una cosa diversa. Dimmi che se io faccio questa cosa qua del fuso, festeggio non so quanti Capodanni in una sera... Esattamente, solo... Io mi suicido. No, già faccio fatica a festeggiarne uno all'anno e festeggiarne cinque in una sera. Questa è la festa per te. L'abbiamo trovata, Rachele. Mi volete proprio così fusa, male, eh? Ti vogliamo fusa, sì. Con la festa dei fusi. Va bene, vediamo se questa alternativa ti piace di più. La festa non festa, ossia andando a letto presto per sconfiggere gli spiriti non facendo alcun rumore. Ecco cosa faccio io a Capodanno quest'anno. Ma sì, prima sì, di mezzanotte? A letto alle 9:15. Prima di mezzanotte, perché c'è appunto una leggenda orientale che dice che a mezzanotte del Capodanno si svegliano questi spiriti e per non infastidirli bisogna andare a letto e non fare alcun rumore. Ma io farei vedi? Tutte e due. Alle 9:42, come quando avevo 8 anni vado a dormire. Bene, vediamo se questa invece ti piace di più. La festa della promessa, ossia bisogna stampare dei biglietti simili ad assegni e distribuirli ad assegni. Ah! A forma di assegno, distribuirli ai propri ospiti e chiedere loro di compilarli scrivendo magari una promessa per il nuovo anno. Bello! Ma non possono compilarli proprio... Davvero, dal loro libretto non trasferibile assegni. E via. Ma quella sarebbe la promessa più bella, insomma, di un autoguadagno. Comunque però poi... anche bello, perché ci dà un buon proposito per l'anno nuovo, quindi è anche una cosa, insomma, che ci fa pensare propositivamente. Profonda, insomma. E comunque, se effettivamente volete festeggiare un Capodanno in casa, vi do un paio di consigli su come allestire la casa per un Capodanno, bello. Così fai da te. Quindi avete gli amici giusti, l'atmosfera giusta, si trascorre bene il Capodanno. Allora, per esempio, colori. Che colori si scelgono a Capodanno per decorare la casa? Beh, idee? Ma un po' di rosso che porta fortuna. Diciamo, le mie... Così, le tue fonti, le mie fonti dicono? Dicono avorio e blu. Rosso forse è riservato al Natale. Solo per le mutande il rosso, allora. No, io sto parlando della casa. Stiamo parlando di... Ah, sì. Allora, il rosso è solo per l'intimo. Solo per il sotto. L'intimo. Il sotto rosso e il sopra avorio e blu. Bene, bene. E poi ovviamente si può vivacizzare in base all'estro personale con paillette, nastri, coccarde, eccetera, eccetera. Però sempre senza eccedere, perché il troppo stroppia e diventa un po' kitsch. Ok, yeah. Benissimo. Poi, se avete degli amici, dei compagni così un po' giocherelloni, passiamo agli intrattenimenti. Accanto a, vabbè, mercante in fiera, tombola, insomma, che sono i giochi battaglia navale, queste cose qua, un po' così, potete simulare una corrida. No? Bello! E quindi sottoporre i vostri concorrenti a ovazioni o fischi sonori in base a... Qui ognuno deve preparare un piccolo show. E poi verrà giudicato, esatto, a suon dal resto di esatto, quindi di prendete pentolate un po' oppure di applausi. Quindi esatto, le pentole dopo aver cucinato mettete a disposizione degli ospiti per la e fatele la anche votazione lavare corrida. Così potete così non. Un altro piccolo così stratagemma o consiglio riguarda invece le cose insomma da mangiare e da bere. Per esempio la parte più importante per quella che accoglie l'ospite è l'aperitivo serve anche a creare l'atmosfera. Potete scegliere aperitivi analcolici, quindi per soddisfare tutti i gusti. E poi ricordatevi le location, cioè distribuiteli in vari punti della stanza in modo che gli ospiti non si così raggruppino così tutti. Così poi tu hai un in bel da fare a mettere a posto. E beh, bisogna insomma prima cercare di creare un po' l'atmosfera. Bene. Già si sta alzati fino a tardi, se mi tocca stare alzata fino alle 9 di mattina del 3 gennaio perché ho messo gli aperitivi. No. Ma allora se è così vuol dire che la casa è molto grande. Nelle case nostre basta che ti giri destra, sinistra, centro e sei a posto. Last but not least, come si direbbe in inglese, è importante anche rendere l'ospite ben accetto e quindi mandate loro degli inviti. Cioè non sì, solo magari lei una bella mail oppure una raccomandata. No, con avviso di ricevimento. Una bella cartolina o qualcosa rende anche l'ospite. Arriva il prossimo anno la raccomandata con le poste. Va bene, io comunque andrei a letto. You see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found to add to your collection. It used to seem we were number one, but now it sounds so far away. I had a dream we were running from some blazing arrows yesterday. You said fire, fire, we're fire, fire, we're fire, fire, we're fire. Through desire, desire, desire, desire, through your desire. Now the sea Allora, vediamo se riusciamo a far felice questa volta Rachele con le ultime proposte per le cose da fare durante le feste a Capodanno. Ce la faremo? Anche se io ho già deciso cosa farò, comunque. Io non mi arrendo. Abbiamo la festa racconto, ossia ciascuno deve portare una foto e deve scambiarla con l'amico di fianco. Ah, indovina chi? No, si dovrà costruire un racconto su quella foto e poi scrivere il finale tutti quanti assieme a fine serata. No. Dai, è bellissima questa. Anche se non indovina chi, però direi che offre dei gran momenti. Ha gli occhiali? Ha gli occhi azzurri? È alto? È pelato? Che poi è alto come lo vedi dalle figurine, non ho idea, comunque non importa. E adesso invece l'ultima proposta, a questa non puoi dire di no. La festa top 5. Oh. Ognuno anche qua deve portare qualcosa da mangiare, quindi minimo sforzo, e le 5 canzoni preferite della propria vita. Diventerà così la colonna sonora di una serata magica in cui ricordare i momenti legati a quei brani. Però la cosa importante, come sempre, sono gli amici e poi la compagnia, perché poi quello dà Capodanno, perché dà la felicità. Sì, vabbè, però Capodanno è anche una festa in cui ti devi sempre per forza divertire. No, e ma in media non ti diverti no, mai. No, infatti, uno non deve avere il proposito di fare cose una volta, però, quando... Però adesso è una cosa tra amici. È pieno di obblighi il Capodanno, io non capisco. Cioè, per esempio, bisogna mangiare le lenticchie a mezzanotte. Ma per qual ragione io devo mangiare le lenticchie a mezzanotte? Cioè, a mezzanotte ti pare che voglia mangiare le lenticchie? Eppure questo è uno dei riti... Nadine sì le mangerebbe. I fagioli a colazione, valutando la colazione che ci ha fatto fare meglio. Scena, perché fanno questo riferimento così casuale? Perché siamo andati a Manchester per fare un piccolo weekend così prenatalizio e la prima mattina a colazione io ho proposto il toast con i baked beans, che sono i fagioli in rosso. La cosa meravigliosa era che proponeva queste cose come per dire le cose più buone della colazione inglese, cose che voi in Italia non avete mai mangiato. È ed vero. Erano... Il formaggio sul toast, cioè il formaggio sul pane, il prosciutto sul pane. No, no, il prosciutto, è questa era una il prosciutto italiana, yes, perché non c'è pane, no. Cheese on toast è solo cheese. Sì. Ma anche in Italia mettiamo il formaggio sul pane. Però no, poi... si mangia colazione. Però era... Questo è sicuro. Era buonissimo, perché apriva... il senso. Vabbè, e Jessica mi dà sensazione. Ti toccava svegliarti i fagioli aprivano i sensi. Vabbè, qua insomma abbiamo le lenticchie. I fagioli aprivano proprio. Sì. Ma ragazzi, perché sforiamo sempre? Ma no, abbiamo questi tasti che sono sempre buoni, toccati. Questo self-control inglese. Anzi, mio papà che ho raccontato era molto contento. Ho detto Fedora! Mia mamma, scusa. Perché non mi adotti anche tu questa tecnica? Era molto soddisfatto. Vedete, è inglese anche lui. Delle origini, secondo me, del suo padre. Stiamo cominciando a delirare. Dai, l'ultimo, un altro obbligo. Pubblicità, salva, no. Basta obblighi. No, vabbè, dai. We are young, we are strong, we're not looking for where we belong, we're not cool, we are free, and we're running with blood on our knees. They cruise the world on a silver platter, from the wrong to the right. prima parlavamo delle lenticchie e poi abbiamo fatto un excursus sui fagioli che abbiamo mangiato in Inghilterra. Hey, comunque, mangiare le lenticchie allo scoccare della mezzanotte del 31 di dicembre sembra essere sembra portare un auspicio favorevole per l'abbondanza e la ricchezza, ed è per questo quindi che c'è sto cavolo di prosperità. Prosperità, come anche i botti di Capodanno. I botti di Capodanno sono la manifestazione della volontà di allontanare le forze del male e gli spiriti maligni per i quali io sto a letto questo Capodanno, che si scatenano in un momento di passaggio dal vecchio al nuovo anno. Adesso sono anche sinonimo di allegria e per il nuovo anno che arriva, però in origine quello di fare casino era proprio quello di scacciare. Poi ci sono diversi tipi di botti, perché io ho letto che anche, è usata soprattutto in Italia, gettare cose dalla finestra, esatto, cose vecchie. Esatto, quindi... è esattamente il punto seguente, che è quello che si usa fare a Napoli, che è quello di lanciare i cocci. È una delle usanze... più caratteristiche come rito di eliminazione del male, sia fisico che morale. Diciamo che poi loro lo usano anche come una sorta di togliere il vecchio e così fanno un po' di piazza. Esatto, è un po' ma insomma, noi abbiamo il pane vin, sei giorni dopo loro probabilmente faranno questo. Se c'è qualche napoletano all'ascolto e la pensa diversamente, prego ci contatti su Facebook, Lipstick Lagoon, che poi spiegheremo come si scrive. Anche l'uva passa è un alimento che si usa a mangiare la notte di Capodanno, anche questo perché porta prosperità e abbondanza per l'anno futuro. Sempre a Capodanno è molto importante la prima persona che si incontra per strada dopo la mezzanotte. Clochard. Speriamo di no. Non è un anno di prosperità se lo incontri. È di buon augurio incontrare un vecchio o un gobbo, però. Quindi non... Beh, dai. Mentre se si incontrerà un bambino o un prete si avrà disgrazia. Madonna, dai. Bambino o un mi prete. Stai a casa dopo. Boh. La ragione di queste credenze comunque è anche nell'analogia. Il vecchio vuol dire che si vivrà a lungo, il gobbo porta bene sempre, tanto più che nel giorno in cui tutte le forze hanno il massimo potere in Piemonte... cosa sto dicendo? Non lo so. C'entra hai già bevuto prima di Capodanno, perché lo hai letto presto, abbiamo capito, perché Raquel, già dato prima, ha già no? festeggiato abbondantemente. Il gobbo in Piemonte. Il gobbo in Piemonte. Sì, perché allora quello è che volevo... già yacht, è tutto rima. Quello che volevo dire era che il gobbo porta bene soprattutto nel giorno di Capodanno, dove tutte le forze hanno il massimo potere, quindi sì. Se porta fortuna tutti i giorni dell'anno, a Capodanno figurati proprio, al massimo. Invece in Piemonte, ed è qui che entrava in gioco il Piemonte, porta fortuna a incontrare un carro di fieno e un cavallo bianco, cose che si incontrano tutti i giorni. In Piemonte hanno una crisi perché nessuno trova sto cavallo bianco a Capodanno, ma a parte questo, insomma. Infatti, poi anche il fatto di si lavora o si riposa il primo dell'anno, pare che in Abruzzo le donne abruzzesi tentino di lavorare. No, cerchino di lavorare il più possibile, mentre noi cerchiamo di riposare, quindi è carino vedere anche queste differenze tra una parte e l'altra dell'Italia, per esempio. Si usa anche mangiare 12 chicchi di uva in Spagna, però. In Spagna c'è la tradizione di mangiare alla mezzanotte 12 chicchi di uva, uno per ogni rintocco dei 12 scoccati da un orologio. Quindi se facciamo quella cosa là dei fusi orari, se fate quella cosa là dei fusi orari, potreste metterci in mezzo anche un bel graspolo d'uva. Beh, si beve direttamente la bottiglia di vino che contiene 5.000 chicchi, perché ovviamente si festeggiano i 5.000 capodanni. Allora diciamo esatto, 12 bevute. Si massimizza insomma, si semplifica. Il bacio sotto al vischio con la persona amata vi porterà amore per tutto l'anno. Il vischio infatti è una pianta ben augurale che dona prolificità sia materiale che spirituale, quindi Mamma. È tutto un mettere insieme cose che alla fine portano prosperità, esattamente come le palle di Natale. Capodanno uguale prosperità, esattamente. Pensa se baci il gobbo sotto il vischio e passa il cavallo bianco, ragazzi, vincete nel lotto subito. L'ultima cosa per finire è quello di vestire biancheria intima rossa, che è quello che è proprio... Ma perché? Perché gli antichi romani che la indossavano come simbolo di sangue e guerra per allontanare la paura. Invece oggi è semplicemente un auspicio di fortuna. Per fortuna, direi. Esatto, adesso magari smetto di bere così elimino problemi eventuali. È tanto che cammini e non senti male i piedi. Seguo già da un po'. due occhi neri e stanchi, e non mi vedi e passi avanti, io ti seguo ancora per un po'. Chi l'avrebbe detto prima che io un giorno sarei andato dietro a te, come quando un uomo cerca di io. Questa corsa non ha senso se il senso l'ho già perso dietro te. Vorrei odiarti un po' senza, senza nemmeno amarti, e vorrei amarti poi senza, senza nemmeno conoscerti. E intanto Londra brucia intorno a noi. Brucia, uccidi ogni sguardo su cui cadi, io ti osservo già da un po' e ti perdi nei tuoi stessi occhi stanchi, e mi illudi e passi avanti, forse aspetto un altro po'. Dopo questa canzone di De Negro Amaro, Londra brucia, proseguiamo e tocchiamo un'altra sfaccettatura del 2010 e raccontiamo un attimo i fatti che sono successi, intanto per rinfrescarci un po' la memoria, anche per capire cosa, le cose belle, le cose brutte che sono accadute anche a livello poi nazionale e internazionale. Allora, comincerei con il fatto accaduto il 12 gennaio del 2010, cioè il terremoto ad Haiti, dove lì è stata veramente una strage e sono morte tantissime persone. E ancora ci sono i postumi, perché poi in quei paesi poveri lì è difficile avere uno sviluppo e una e recuperare quello che già prima non c'era o non funzionava. Poi dobbiamo toccare sicuramente questo tasto, la crisi del debito in Europa, e qui purtroppo c'è. Poi il successo. Beh, anche la crisi della Grecia che poi ha portato a tutto questo disastro è del 2010, magari uno non si ricorda perché sembra essere successo una vita fa e invece non è passato neanche un anno ancora. Comunque a proposito di debito, colgo l'occasione, tra i propositi del nuovo anno che poi così andrò a suggerire, nella top 10 c'è anche così estinguere qualsiasi debito, quindi se nel nostro piccolo abbiamo qualche debito, il 2011 sarà l'anno per estinguerli, va bene? Pagate i debiti. Okay. Sperando che la crisi dopo questi messaggi positivi. Sperando che la crisi, diciamo, ci dia una mano, nel senso che finisca. Comunque, poi abbiamo il regno di WikiLeaks che ha aperto ed ha praticamente dato adito a delle informazioni segretissime. E poi ricordiamo invece una cosa, secondo me, a livello internazionale davvero curiosa e soprattutto è stata poi una festa per tutti, i minatori del Cile che sono riusciti insomma a mettersi in salvo dopo quella è stata una tre cosa mesi veramente che ci ha pensa a vivere tutto quel tempo, cioè, sono stati bravissimi e sospeso, cioè, sono stati bravi poi anche i soccorsi, abbiamo anche magari perso le speranze, poi il fatto che da sotto così possa è stata una festa bellissima, io mi ricordo che ero lì che guardavo i primi che salivano con questi occhiali, era veramente una cosa tenera, nel senso che dopo tutto questi fatti che comunque sono davvero brutti, quella cose che succedono, quella sembrava una tragedia, però una tragedia è finita bene, che non sempre accade. A proposito di abbracciare i propri cari, Nadine, c'è stato un minatore che appunto aveva sia l'amante che la moglie e nessuno dei due, delle due sapeva dell'esistenza dell'altra. E quindi mentre lui era sotto c'erano queste due donne trepidanti che aspettavano che lui riemergesse. No, ma davvero, poi, non ma poi hanno, ma si sono, hanno scoperto la cosa? Sì, hanno scoperto la cosa ovviamente e mi sembra che lui abbia scelto comunque l'amante. No. Ma pensa anche il quindi c'è anche un po' di gossip dei cileni, fantastico. Infatti ci sono molti racconti legati, sì, a questi delle... minatori, penso che faranno, se non abbiano, se non hanno già fatto un libro, comunque faranno anche un film. Eh, vabbè, beh, sì, si presta, sì, moltissimo, sì, la storia, anche perché le è una cosa del sottosuolo, potremmo anche così questo con questo eco, diciamo, di Dostoevskij, vabbè. Poi abbiamo invece qui in Italia, diciamo, la continuazione di Rifiuti a Napoli, che ogni volta cercano di risolvere, dopo ogni tanto sbucano, sarà anche magari a solleva Capodanno, chissà, ci sarà un nuovo problema. E poi c'è ecco, le proteste degli studenti proprio, sì, in questi giorni, proteste anche violente, insomma, che secondo me dovrebbero cercare di capire effettivamente le loro volontà e dirle in maniera un po' più, sì, diciamo, civile, solito, ma insomma... No, ma bisognerebbe andare sia da una parte che dall'altra a parlare di cose serie e non stare a parlare di aria fritta. Diciamo che sia un tasto molto delicato e... Sì, è difficile poi anche commentare, insomma. In un paese dove si commenta solo di aria fritta e mai di sostanza. Infatti. E diciamo che questi sono alcuni dei fatti accaduti. Poi però... E a livello un po' più così, diciamo, ecco, gossiposo. No, mi piacciono questi gossiposo. Insomma, questi erano gli avvenimenti che sono accaduti, ma quelli veramente importanti ve li diciamo, okay, adesso. Sì, benissimo. Allora, intanto io parlerei dell'ambito, diciamo, sportivo. Ci sono stati i mondiali, non ci dimentichiamo, anche se noi abbiamo fatto una pessima figura, che perché siamo usciti a ricordare queste cose terribili. Diciamo che c'erano tante speranze, tante. Però la coreografia era bella. Però la canzone ci ha lietato l'estate, quindi diciamo che è stata anche una pausa piacevole. Poi, Shakira, vabbè, ha dato il suo. Anche il Polpo Pol, che ha un po' animato quelle sere. Sì. Tra l'altro, 2010, adesso vorrei un attimo avere un minuto di silenzio, ma non si può perché siamo in radio, se no abbiamo... Per il Popo Paul, che è morto. È morto, mi dispiace, no, perché c'è... È stato grigliato. È morto il 26 ottobre 2010. Ma a quel che so è già stato rimpiazzato. Da chi? Da un altro polpo. Ah, ma tutti i polpi hanno questa facoltà? Dicono che abbia queste facoltà anche questo polpo. Io dico, boh, sarà vero. Di prevedere i prossimi mondiali. Bene. Ora, però, parlando di mondiali, mettiamo una canzoncina che nessuno, secondo me, conosce. Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia? Ah, non c'è? E che faccia c'è, scusa? Fabri Fibra è tanta roba, come il detto, comandare meglio che scopare. Dichiara questa, io lo so, lo diceva come non detto. Tu che ci fai qui? Dice passo per caso, se a un concerto passi per caso, pensi che la beva? Come chi? Come chi vota Lega? Disco fancadellistico non è questo, la storia è acida quando la senti fai ah. Preso male come Lucio Dalla, regionale via da Senigallia. Non vedevo l'ora di andare via, ora non vedo l'ora di ritornare a casa. Apro il cancello ma la porta è diversa e c'è un altro cognome sul campanello. Più vuoi e meno avrai, più dai e meno prendi. Prima lo si impara, poi più sogni e meno fai, più fai e meno sogni. Prima lo si impara, poi dare, ma io dovevo... Bene, ora parliamo un po' appunto di gossip e vediamo se nel Festival di Sanremo, dove ci sarà questa copresentazione della Canalis, riuscirà a portare all'altare il nostro bellissimo George Clooney. Quindi nel 2011 scopriremo se l'unione avvenuta nel 2010 porterà un matrimonio. Vediamo. Possiamo anche parlare di Marilyn Manson e Evan Rachel Wood. Allora, facciamo un piccolo excursus. Allora, nel 2006, quando Marilyn Manson ha incontrato la nostra Evan Rachel Wood, ha subito perso la testa per lei. La giovane attrice 22 anni, che incantava, era quella di Mean Girls. Bravissima, negli Stati Uniti d'America, con il grande successo. Oggi, invece, sotto tutto il loro look gotico e spaventoso, Mary nasconde un cuore romantico. Ha appena chiesto alla amata di sposarlo in occasione di un concerto a Parigi, la città dell'amore, come diceva Jessica prima, e lei naturalmente non aspettava altro. Il cantante ha dichiarato: grazie a Rachel sono diventato una persona migliore, speriamo, e vediamo se nel prossimo domani ci sarà anche per loro matrimonio. Lei vestita con un meraviglioso abito nero e lui perfetto stile Mason. E tutto in una... la cerimonia sarà fatta in una chiesa però sconsacrata, mi dispiace da dire, sicuramente. Poi possiamo fare una piccola parentesi su Leonardo DiCaprio e Bar Raphael. Sì, sì, che mi interessa. Si sono mollati finalmente. Allora, ieri... Facciamo un piccolo, un piccolo excursus. Allora, da novembre 2005, tra Leonardo DiCaprio e Bar Raphael, non hanno mai smesso di prendersi e lasciarsi. Chissà in che momento sono. L'ultima separazione è avvenuta tra i due lo scorso ottobre. Però diciamo che un viaggio natalizio in Messico ha un po' dato... Ecco, è riuscito a farli ricominciare. Oggi, invece... Si sono rimollati. Abbiamo visto un bacio lunghissimo scambiato su un prestigioso hotel dove lei diceva che ormai sono inseparabili e vogliono trascorrere tutto il 2011 assieme. Ecco, ti pareva. Domani. Non c'è proprio fortuna. Chissà se ci sarà un'ennesima rottura. Vedremo. Vedi che devo andare a dormire al Capodanno, perché sennò gli spiriti maligni non mi abbandonano e non posso conquistare DiCaprio. E poi, parlando di una nostra cantante, Katy Perry e Russell Brand. Oh. E diciamo che si sono trovati, si sono amati e vedremo se si sposeranno nel 2010. Lei vorrebbe avere un figlio. Piccolo aneddoto, Russell Brand si è riusciti a vederlo per televisione ovviamente a Manchester mentre noi mangiavamo non so che razza di prelibatezza. Stavo per dire porcheria, comunque vabbè, inglese. E è un matto. Eh sì, difatti lui ha chiesto a Katy Perry di sposarlo vestito da donna, mandando una specie di DVD o comunque un piccolo film in cui lui è vestito da donna, e lei ha detto che è rimasta molto colpita dalla sua originalità. Almeno non si può annoiare, dai. Allora, benissimo, adesso però torniamo a noi e torniamo a vedere cosa possiamo fare di buono per dare il benvenuto al 2011. Cominciamo con i nuovi propositi per il nuovo anno. Allora, primo buon proposito per cominciare un 2011 perfetto è trascorrere più tempo con i propri cari. E in effetti siamo di Mirachele. A proposito di buoni propositi, è un po' un wannabe, giusto? Quindi no, ci lasci. Sì, vi metto anche un po' di Spice Girls, perché Capodanno si può anche tornare un po' bambini come quando io ascoltavo questa canzone. Che bello, ricordiamo. Sì, che parte col toc toc e poi no, che meraviglia. Ah, ok, scusate, ero presa da questa canzone, ero tornata indietro col tempo. Allora, dicevo, quindi, il tempo scorre tiranno e lo sappiamo, soprattutto con la vita di oggi. Quindi, per il nuovo anno, veramente cercate di ritagliare quanto più tempo per stare con le persone a cui tenete di più. Sembra un luogo comune, per una cosa veramente da notare. E poi, per esempio, per chi ha così qualche vizio da battere come il fumo, ecco, un buon proposito è quello di smettere di fumare, oppure di magari dedicarsi un po' più alla palestra per qualcuno che deve tornare in forma. E terzo proposito, anzi quarto, insomma, importante per il nuovo anno è quello di vivere e godere la vita, godersi di più la vita. Quindi quando finiamo il lavoro non pensiamo, ci tagliamo, se abbiamo degli impegni importanti shiftiamo un attimo, facciamo control punch, cerchiamo di essere più positivi, vero? Sì, non stressiamoci quando non dobbiamo farlo. Come dicevo prima, eliminare tutti i debiti, quindi un pensiero in meno. Mm-hmm. E poi un proposito che a me piace particolarmente è questo: imparare qualcosa di nuovo, cioè avere proprio orrore dei propri limiti e dire no, io riesco a fare qualcosa in più, e quindi dire andare superare ciò che pensavamo di poter fare, a così lanciare una sfida a noi stessi, mettersi in gioco che è sempre una buona cura, sorridere di noi stessi e cercare di così fare qualcosa di meglio. Ed ora lanciamo la parola a Jessica. Come tutte le volte, anche questa volta abbiamo un aforismo che però è sulle feste. Quindi, ad ogni party sono sempre presenti due tipi di persone: quelle che vogliono andare a casa e quelle che vogliono restare. Ma il problema è che sono sposate tra di loro. Quello è il problema. Saluti, buona fine e buon inizio. Esatto. Buon Capodanno. Ciao. Buon Capodanno. Tutti a letto a Capodanno. Tutti a fare il Capodanno dei Fusel. Era festa dovunque, in ogni chiesa, in ogni casa, intorno al ceppo, lassù, innanzi a un presepe, laggiù, noti volti tra ignoti riuniti in lieta cena. Eran canti sacri, suoni di zampogne, gridi di fanciulli esultanti, contese di giocatori. E le vie della città, grande o piccola, dei villaggi, dei borghi alpestri o marini, eran deserte nella rigida notte. E mi pareva di andar frettoloso tra quelle vie, da questa casa a quella, per godere della raccolta festa degli altri. Mi trattenevo un poco in ognuna, poi auguravo buon Natale. Questo è Pirandello. E non so perché a me ricorda un'atmosfera un po' inglese di... Ma sì, l'atmosfera proprio del Natale in pieno, perché mi dico sempre... Qui in Italia, o almeno in questa zona, non sempre percepisco la vera atmosfera natalizia, è una cosa che invece mi proprio avvolge non appena vado in Inghilterra a Natale. Diciamo che Natale è in dicembre, in realtà in Inghilterra forse anche esageratamente inizia, forse persino ad agosto, nel senso che quest'anno effettivamente ad agosto ero in Inghilterra e così andando di negozio in negozio, capito sempre in negozio di cartoline e di biglietti d'auguri perché mi piacciono tantissimo e c'erano biglietti di auguri compleanno, anniversario e poi c'era una parete già piena di biglietti natalizi. I biglietti natalizi forse sono la cosa più caratteristica del Natale in Inghilterra. Appena si entra in un salotto inglese a dicembre, già a novembre, si vedono appunto questi fili che reggono queste cartoline, questi biglietti natalizi con piccole che raccolgono alla fine e che racchiudono frasi significative. Però Natale in Inghilterra non sono ovviamente solo biglietti. Allora, visto che non abbiamo dedicato molto ai bambini, se ci sono dei bambini che ci stanno ascoltando, e penso per esempio ai miei nipoti che colgo l'occasione di salutare, vediamo cosa si lascia la vigilia di Natale per Babbo Natale e per la Renna Rudolph. Sapete tutti che la Renna Rudolph è il caporenna. È il caporenna. Certo. Ma è quella col naso rosso? Esatto, brava, qua vi volevo. E cosa si lascia per loro la vigilia? Perché ovviamente fanno il viaggio e hanno bisogno di distrarsi. Io lasciavo una fetta di panettone per Babbo Natale e il latte per le renne. E poi quando mi svegliavo la mattina il panettone era mangiato a metà e il latte se lo avevano bevuto tutto. Che bello, quindi era veramente passato qualcuno. Sì. Adesso ormai a casa mia era un po' più rustico perché si lasciava metà salame con un po' di pane perché Babbo Natale lo vedevo abbastanza provato, un uomo rustico perché prima passava da te e quindi si faceva il pane col salame e poi veniva a mangiarsi il dolce da me, no? In Inghilterra in realtà il latte c'è anche lì, però si lascia a Babbo Natale una mince pie. Allora, mince pie è una parola inglese ed è un dolce fatto di pasta frolla all'esterno e che racchiude un cuore di frutta secca e noci, insomma il giusto pasto ristoratore di mezzanotte per Babbo Natale. E per Rudolph si lascia? La biada. Le crocchette. Le crocchette. Per le renne. No? Per le renne. Un fieno. Canzone. La carota. Ah! Ma scusa, la non sono i conigli che mangiano le... Ma è Bugs Bunny che mangia le carote. Va bene, in Inghilterra le renne. In Inghilterra le renne mangiano le carote. Almeno mangia la carota. E a tutti non discutiamo. Però cosa mangiano gli umani? Cioè, Rudolph mangia la carota. E cosa mangiano gli inglesi? Qual è il tipico pranzo natalizio inglese? Non sono sicura di volerlo sapere. Dai, il bellissimo tacchino ripieno, che solo a vederlo così. Immaginate, chiudete gli occhi un attimo. Quando lo fanno? Immaginate questa tavola imbandita. Beh, avete visto la puntata di Mr. Bean quando prova a mettere il tutto dentro il tacchino. Più o meno è così. Quindi vedete questo tacchino che troneggia in mezzo alla tavola, è glassato, quindi un po' lucido. E tutto attorno queste verdure multicolorate che circondano il tacchino. Però... prima di sedersi a tavola e di lasciarsi trasportare dalla goliardia, bisogna alzarsi in piedi e alle ore 15, alle 3 p.m. si ascolta il discorso della regina. È ancora una tradizione, si ascolta in religioso silenzio e dopodiché si può mangiare. E sul tavolo ci sono i segnaposti preparati e i crackers. Cosa sono? Crackers? I crackers. Ecco, detto cosa sono in i crackers? I crackers sono quelli pane che... pane secco. No, sbagliato. In Inghilterra voi andate cioè, ma allora guidate al contrario a Natale sono un'altra roba. Infatti, cioè, nel senso, mi metto in guardia. Se in Inghilterra andate e non so, leggete Christmas crackers, non pensate di ricevere pane secco. Sono delle tipo delle dei giochi a forma di caramella allungata e si tirano. Due persone tirano un estremo, i bastoncini, scoppia e c'è la sorpresa. Esatto, c'è la sorpresa, la barzelletta di Natale e il cappello che si indossa. Ed fantastico. È vero che poi nel pudding, o come cavolo si dice, mettete le monetine. Certo. Per fare la fortuna dei dentisti dopo Natale. Esatto, chi trova la monetina, il penny di bronzo, oppure era forse un 5 penny di d'argento in precedenza, vale avrà fortuna tutto l'anno. Però... se non trovi il penny comunque trovi qualcosa di buono, perché il pudding viene praticamente alimentato, proprio viene fed in inglese, con whisky, perché si prepara molto in anticipo a partire da ottobre, novembre, ed ogni 10 giorni fino ad arrivare a Natale si fora il pudding e dentro viene inserito del brandy o del cognac, quindi è ben, diciamo, potente come dolce, quindi anche se non date la monetina comunque siete contenti lo stesso. Esatto, siete veramente merry. Merry. Quindi chiudiamo e a tutti voi una bella canzone per renderci insomma ancora più natalizi.